Cos'è la stella di David? Storia di un simbolo. La stella di David è un simbolo ebraico, cioè degli ebrei, che viene usato dai nazisti per identificare gli ebrei e tenerli isolati. La stella di David è un simbolo che rappresenta la religione ebraica, probabilmente utilizzata fin dal Medioevo.